Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Io non amo quando rifletto, tutte le cose sono senza colore. Vieni l'inverno e tutto grigio, metti il mio cuore una fame di sole. Io sono stanco di respirare questa aria. E forse finalmente ci siamo, l'abbiamo aspettato tanto e il sole sembra essere arrivato. Eravamo stanchi di vedere tutto grigio e anche noi come branduardi abbiamo fame di sole. Il sole, come ci raccontavano le nonne, bacia i belli, e chi ascolta Essere Benessere è bello per definizione. E in linea con noi abbiamo il dottor Carlo Gargiulo, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai nostri ascoltatori. Bello pure lei. Quindi come va? Tutto il bene? Sole... Noi andiamo bene, adesso ci lasceremo baciare dal sole, ma dottore, una giornata... Speriamo, perché qui a Roma non è molto soleggiato comunque. Adesso allora ve lo mandiamo subito. Dottore, una bella giornata di sole fa bene anche al nostro umore e al nostro sistema immunitario, è così? Assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo. Una giornata di sole è quella che aiuta anche a superare momenti un pochino più tristi, un pochino più cupi, a volte anche una depressione leggera migliora con l'aumentare delle ore di luce, con l'aumentare di quella che è la nostra fonte vitale, che è appunto i raggi del sole. E questo ha un benefico effetto sul sistema immunitario. La neuroendocrinoimmunologia o psiconeuroendocrinoimmunologia ce lo racconta. Oggi noi sappiamo perfettamente che tutto il sistema è collegato, quindi se stiamo bene con noi stessi, stiamo bene con il mondo intorno a noi, migliora anche le capacità del sistema immunitario. Ed ecco che il sole da questo punto di vista è benefico. Tira non su. Dimentichiamoci però un'altra cosa importantissima: il sole ha anche un effetto antibatterico, quindi ci aiuta ad evitare le infezioni. Allora dottore, lasciamoci baciare dal sole. Va bene, ma con prudenza. Con prudenza, di questo parleremo nel corso della nostra trasmissione. Intanto grazie dottor Gargiulo per essere stato con noi, buonissima giornata. Bene, grazie e tanto sole a tutti, arrivederci. Ma prima di lasciarci baciare, guardiamoci un po' la pelle, osserviamo anche i nostri nei. Mi raccomando, se volete mandateci le vostre foto, non faremo diagnosi, ma partendo dalle vostre foto che potete mandare a esserebenessere@radio24.it, proveremo a dare a chi ci ascolti indicazione. Qui in studio con noi due esperti, la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa, presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica, bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Esperta anche del nostro Daily Lab, e qua con noi abbiamo anche il dottor Mario Santinami, buongiorno dottore. Direttore della struttura complessa di melanoma e sarcoma alla Fondazione Istituto Nazionale Tumori di Milano. Dottore, intanto ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24 se volete parlare di sole con noi, se il vostro umore migliora proprio con queste belle giornate di sole, se avete in programma finalmente di farvi baciare un po' dal sole e volete conoscere un po' le regole di protezione, potete contattarci al nostro numero verde o come sempre scriverci su Facebook o mandarci un messaggio al 349-238-6666. Dottore, si parla di nei e spesso si parla di nei proprio prima dell'estate, anche se i nei andrebbero controllati non solo in estate, prima dell'estate. Noi abbiamo il picco di richiesta di visite proprio in questo periodo, però va ricordato che il melanoma non è che crea problemi solo nei mesi estivi, è una malattia che va osservata sempre. Noi raccomandiamo ai pazienti che quando notano qualcosa di anomalo sulla pelle di farsi vedere dal loro dermatologo, dal loro medico di base, e poi se è un problema arrivare a un centro di secondo livello. I nei, dottoressa Serri, li abbiamo tutti, alcune persone ne hanno più di altre. Il numero di nei può fare la differenza? No, però ci sono alcune persone che hanno parecchi nei di forme irregolari, si chiama sindrome del nevo displasico displastico, e possono arrivare a avere anche 150-200 nei di grosse dimensioni. In questi casi è inutile terrorizzarsi, il bello della pelle è che è a vista, per cui e noi oggi possiamo leggerla e decodificarla in tutti i modi grazie a strumenti non invasivi, per esempio con un semplice dermatoscopio. Si fanno dei controlli annuali, ogni 6 mesi ci si fa seguire dal medico per valutare l'evoluzione di questi nei e per valutare se sono venuti dei nei nuovi. E per valutare se un neo con delle caratteristiche di ABCD asimmetrico, bordi regolari, colori diversi, dimensioni superiori ai 6 mm, e anche evolutivo, cioè negli ultimi 3 mesi è un po' troppo cresciuto. In quel caso è come una carie. Io lo dico sempre, quando c'è una carie nei denti si va dal dentista, la si fa togliere senza tante storie. Togliere un neo è un intervento semplicissimo ed è un assoluto luogo comune dire che è pericoloso togliere i nei. È una stupidaggine dire questa cosa. Sì. Ed è legata ai tempi antichi in cui i nei si toglievano troppo tardi, per cui la persona lo toglieva solo quando era veramente troppo grosso. Quindi si fa togliere il neo che desta dei sospetti. Una volta tolto non ci sono più problemi. Qui abbiamo un bravissimo chirurgo dei nei, ecco che insomma noi, grazie al cielo, come medici siamo tutta un'equipe dalla parte del paziente, dalla parte dell'utenza, e ci teniamo proprio a salvare tra virgolette la pelle. La dottoressa Serri ha citato la regola, ormai l'abbiamo imparata tutta per un'autoispezione, che è la regola dell'ABCDE. Lo scioglilingua, sì. È uno scioglilingua, quindi in sostanza possiamo ispezionarci davanti allo specchio, dottor Santinami, e vedere se il nostro neo come si comporta. A sta per asimmetria. Sta per asimmetria, B sono i bordi. Che devono essere? Dovrebbero essere regolari. Quando sono irregolari è un primo campanellino d'allarme, ma non significa che se i bordi sono irregolari necessariamente sia qualcosa. Diciamo che quando di questi parametri cominciano a essere presenti 2 o 3 parametri, forse è venuto il momento realmente di farlo vedere. Ma non c'è solo la regola dell'ABCD, ma c'è anche la regola del brutto anatrocolo. In linea con noi abbiamo il dottor Gianmarco Tommasini, coordinatore nazionale del gruppo melanoma di ADOI, che è l'Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani. Non è colpa mia! È questo stupido zono messicano! No, lo zono messicano non è stupido, Laila. Bastava mettersi la protezione solare. Cercavo di abbronzarmi. No, volevi l'abbronzatura selvaggia. Ma tu da che parte stai, Eddie? Come? Da che parte sto? Dalla mia o da quella dello zono? Scegli! Sto dalla tua parte, certo, ma calmati. Senti, ora ti metto un po' di aloe sulle spalle, ok? Dovrebbe darti un po' di sollievo. Dottor Tommasini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Voi avete fatto un'indagine, My Skin Check, su 1300 adulti e 90 bambine. Avete scoperto che sono ancora molti gli errori che vengono commessi durante l'esposizione al sole, tanto che il 50% degli adulti e un buon 41% dei bambini intervistati continua a scottarsi al primo impatto con le vacanze estive al mare, il primo weekend di sole. Come mai? Allora sì, My Skin Check è un grande progetto di salute pubblica e di prevenzione del melanoma realizzato dalla Roche-Posay in collaborazione con il supporto tecnico e scientifico di ADOI. In questi 4 anni abbiamo fatto varie campagne di visite e epidemiologiche. L'ultima del 2011, come diceva lei, ha riscontrato dei dati interessanti, cioè noi abbiamo visitato 1370 persone, 1284 adulti in particolare e 86 bambini. Sì. E il primo dato che è emerso è che forse negli anni passati abbiamo fatto delle buone campagne di informazione, cioè le persone intervistate, gli adulti e anche i ragazzi, sanno quali sono i danni di una non corretta esposizione al sole, sanno che il sole fa venire i tumori. Però non è un po' forte, mi scusi dottore, cioè nel senso che una pelle non protetta o è proprio il sole che fa degenerare un neo e lo trasforma in un melanoma? Dunque, soprattutto le scottature solari, soprattutto prese nella giovane età. 1 o più scottature solari possono raddoppiare il rischio. Sì, possono raddoppiare il rischio di sviluppo di una neoplasia in età adulta. Il sole, e questo per quanto riguarda soprattutto il melanoma, per quanto riguarda i tumori epiteliali, quindi l'epitelioma basocellulare e lo spinocellulare, è la esposizione cronica al sole che fa venire queste malattie. E come si diceva, gli intervistati sanno di quelli che sono i rischi di una non corretta esposizione al sole, sì. Però ahimè ancora il 50% delle persone che noi abbiamo visitato e intervistato si scotta al sole. E quindi da qui emerge... Ecco, il messaggio è non, cercate di non scottarvi, usate la testa, usate la prudenza, che naturalmente può essere utile una crema solare, può essere utile anche un po' di buon senso e mettere la magliettina, il cappellino, penso ai nostri bambini, dottore. Ha perfettamente ragione, la maggior parte delle persone utilizza la crema solare, probabilmente utilizzano una crema solare non adeguata, quindi la maggior parte di queste ha risposto che utilizza un fattore di protezione inferiore a 20. Ma il dato sul quale ancora dobbiamo insistere è, come diceva giustamente lei, poco utilizziamo il cappellino, gli occhiali da sole e la maglietta per proteggerci. Anche perché il sole ha anche numerosi vantaggi di cui parleremo nel corso della trasmissione, e quindi, dottoressa Serri, è giusto? Io vorrei chiarire tre cose molto importanti. La prima è che non se ne può più di associare il termine sole al termine cancro. Noi oggi sappiamo, grazie proprio anche alle ricerche fatte all'Istituto dei Tumori di Milano, che il melanoma non è legato all'esposizione solare. Lì si parla di lentigo maligno, è un'altra cosa. Quindi parlare di melanoma, che viene più frequentemente sulla schiena e sulle gambe, che non sono le zone più esposte, e confonderlo con l'esposizione solare è veramente sbagliato. Sole non vuol dire... Anzi, tumori, sole vuole... Certo, troppo sole, ma anche troppo mangiare, troppo tutto fa male. L'altra cosa che volevo dire, prima il dottor Gargiulo ha detto che il sole è antimicrobico e stimola il sistema immunitario. Questo anche grazie alla produzione di vitamina D. Certo. Che il sole, solo i raggi solari permette, e noi sappiamo oggi che la vitamina D è antitumorale, è stimolante del sistema immunitario, e molte persone sono in carenza di vitamina D. La terza cosa è effettivamente le scottature in età infantile sono quelle più a rischio per lo sviluppo di tumoretti in età adulta, soprattutto in chi? In chi produce poca melanina, quindi in chi è molto chiaro e si abbronza poco. Ma ricordiamo una cosa: i tumorini epiteliali della pelle, quando si parla di basagliomi, soprattutto i basagliomi che non danno mai neanche metastasi, e gli spinagliomi, non sono mai tumori pericolosi, si tolgono e non succede niente. Giusto? Assolutamente sì. Ecco, chiedo scusa, io mi infervoro in questi casi, perché veramente il sole è nostro amicone. Come è dire un nostro amicone. È come dire che mangiare fa male, perché mangiare fa diventare obesi. No, dipende da come si mangia. Quindi, dottor Tomassini, l'invito della DOI è occhio e testa. Sì, no, assolutamente, io concordo con i colleghi, non dobbiamo demonizzare il sole, anzi tutt'altro, il sole è la nostra fonte primaria di vita, questo sì, noi vogliamo soltanto dare delle informazioni alla popolazione di come, di delle regole, delle corrette regole al sole, proprio per mandarle al sole. E l'altro è che mi hanno già preceduto i miei colleghi, è quelli di sottoporsi a delle visite dermatologiche periodiche in base alla tipologia di denti, certo, che una persona ha, che non è più quindi per tutti uguali, e sollecitarli a fare questo autoesame, questo metodo ABCD, cioè sono loro stessi che vengono da noi, che hanno evidenziato il brutto anatroccolo, la comparsa di lesione pigmentata sospetta, ecco come ecco, la il brutto noi. Anatroccolo è un neo che si modifica in tempi e nelle forme che risultano, esatto, sospette. Esatto. Grazie dottore per essere stato con noi, buon sole anche a lei. Grazie a tutti. E noi andiamo nella provincia di Alessandria, ci aspetta Melania, buongiorno. Buongiorno. Sì, io volevo esporre questo mio problema, perché in effetti ho un figlio di 22 anni, molto chiaro di pelle, con tantissimi nei, e da bambino, quando lo mandavo al mare con la nonna, qualche scottatura anche molto brutta l'ha presa. Per cui, ma adesso lui è periodicamente sotto controllo con i nei, qualcuno l'abbiamo anche tolto, e quindi sta diventando praticamente una groviera sto ragazzo, perché nella schiena ogni tanto ne toglie uno. Ma il mio problema attuale, ed era una cosa che è preoccupante per me, è che adesso il ragazzo ha l'esigenza, questo desiderio, di farsi un tatuaggio. Dice, lo faccio nelle parti dove non ho nei. A parte che poi i nei possono sempre venire in seguito. Sì, perché... Ma dico, se lui dovesse fare un neo e un tatuaggio, che poi come si fa a controllare il colore, le dimensioni, come si evolgono? è questo. Allora, una mamma preoccupata. Il ragazzo vuole fare il tatuaggio, ha molti nei, dottoressa Serri. Lei, è una scelta soggettiva che possiamo condividere o meno, ma... Ma dico, l'importante è che scelga un bravo tatuatore, che si faccia un bel tatuaggio, non troppo grosso. La poverino, ha già fatto tanti interventi per togliere i nei, diamogli un contentino. E noi continuiamo. Grazie Melania. I nostri esperti non le hanno fornito magari la risposta che lei voleva, magari Melania avrebbe voluto dire al figlio. Anche gli esperti di Essere Benessere hanno detto che non puoi fare il neo, il tatuaggio, invece naturalmente con tutte le precauzioni del caso non ci sono delle controindicazioni, almeno relativamente alla presenza di nei sulla pelle. 800 24 00 24. Dottoressa Serri, parliamo anche di fototipo. Lei ha accennato alle persone che hanno la pelle particolarmente chiara e quindi sappiamo che tendono ad avere più problemi con l'esposizione al sole, l'eritema, la scottatura. La cosa importante non è valutare il colore di base della pelle, ma come la pelle risponde sotto stimolo solare. Noi abbiamo delle persone con occhi chiari e capelli biondi che sotto stimolo solare producono tanta melanina, quindi si abbronzano tanto. Ebbene, queste persone sono meno a rischio di persone magari con occhi e capelli castani che non producono melanina e si scottano sempre. Questo rappresenta il fototipo, cioè come la pelle risponde quando è irradiata dal sole. Dallo fototipo 1, che è quello che si scotta sempre, non si abbronza mai, gradualmente arriviamo al fototipo 6, che è il nero africano. E quindi in mezzo c'è tutta la gamma dei fototipi. I più a rischio di danno solare sono i fototipi più bassi, cioè quelli che si producono poca melanina, perché non dimentichiamo che il corpo umano e la biologia sono perfetti. Noi produciamo questa cosa straordinaria, che è un piccolo laboratorio che neutralizza il danno solare e glorifica i vantaggi solari, che è la melanina. La pigmentazione, quindi, dell'abbronzatura è la protezione naturale. Chi ne produce poca o va in vacanza in paesi nordici oppure si protegge bene, però stimolando sempre un pochettino la sua produzione, quindi magari esponendosi un pochino la mattina presto e la sera tardi, perché i danni maggiori il sole li fa anche a chi non prende mai il sole e poi improvvisamente si espone. Va a farsi un weekend e fa una sorta di indigestione. 800 24 00 24, sole amico, a tra poco, dopo i mercati e il meteo. In linea con noi abbiamo già il professor Giacomo Calzavara, direttore della clinica dermatologica dell'Università di Brescia e membro del consiglio direttivo di Sidemast. Oggi è l'Euromelanoma Day. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Essere e benessere. Arrivo, lettino, l'acqua zigrinata dal ventarlino di maestrale. Silenzio, uccellino. Arriva la mia moglie, una borsa 70x40, una bombola da sub arancione, col figliolo. Faccio, non prendere la bombola, guarda, la piscina è bassa. No, è il tubo della crema solare. Tira fuori questa bombola. Fa un'anguilla. Poi prende il figliolo, mette lì. Girati. Dopo mezz'ora era un pane di burro mio figlio. Per guardare negli occhi così. Io un'ora sotto il sole, fa: senti amore, me ne dai un goccino anche a me? Guarda che costa tanto. Professor Calzavara, l'abbiamo introdotta con questo estratto di Migone che racconta molto, no, sulle nostre abitudini nell'utilizzare la crema. Ci sono persone che si spalmano come delle anguille, ci sono invece persone che proprio con la crema non hanno feeling. Anche qua noi invitiamo un po' di buon senso, una via di mezzo, utilizzare quella giusta anche nella quantità giusta. Professore. Già. Il problema sta tutto lì, cioè nel cercare la misura corretta della fotoprotezione, e questo è un compito non facile e che difficilmente si può risolvere con degli slogan. Certo, ma con una buona informazione. Esatto. Senta, professore, noi stiamo facendo un po' un bilancio sull'esposizione al sole e vogliamo sottolineare anche gli aspetti positivi che possono arrivarci dai baci del sole. Abbiamo già parlato di umore, di una protezione per il sistema immunitario, ma c'è dell'altro. Si attivano alcuni meccanismi che... Sì, diciamo che quanto ho sentito prima che ha detto il dottor Gargiulo riguarda degli effetti che non hanno nulla a che fare con l'esposizione ultravioletta, cioè riguardano la luce. Degli effetti, certo. Esatto, riguardano la luce come intensità di luce visibile, certo. Sono prevalentemente mediati dalla le giornate visibile. Luminose, ecco, esatto, diciamo così. Quello non è mentre quello quando... se hai la crema, quello lo ricevi lo stesso. Mentre quando ci esponiamo nudarelli o mezzi nudarelli al sole, che cosa succede? Allora, succede prima di tutto che ci si pigmenta. Ora, escluso i soggetti con fototipo molto chiaro, sì, che sviluppano un tipo di melanina, che è il pigmento della cute, che di per sé può favorire i tumori, quindi quelli è meglio proprio che non lo facciano, gli altri sviluppano una pigmentazione. La pigmentazione di per sé è protettiva su successive esposizioni. Sì. L'altra questione è che in un certo senso lo strato più esterno della pelle, lo strato corneo, si spessisce. Questo è un'ulteriore difesa da successive esposizioni. Certo. Quindi contribuisce tutto ad evitare quell'effetto di ustione che invece è quello sicuramente associato a tumore. Per quanto riguarda poi gli effetti sulla vitamina D, questi sono noti. Quello che è noto è che quello che si sta verificando sempre di più è la conoscenza che la vitamina D ha degli effetti non solo limitati al metabolismo delle ossa, ma anche al sistema immunitario, sì, la differenziazione come, delle cellule infatti, e quant'altro. Come ha anticipato la dottoressa Serri. Esatto. Il problema, secondo me, è che la corretta informazione dovrebbe anche informare su qual è il dosaggio di radiazione che permette questi effetti senza... e non causa gli effetti invece sicuramente carcinogenetici. Che è una parola difficile, ha. Quindi per prendere dal sole solo il buono. Per prendere dal sole solo diciamo il buono, così è più semplice, sì. Direi, ma il concetto è proprio questo. È uguale. Allora, ricordo che oggi, 7 maggio, anche in Italia si celebra l'Euromelanoma Day. Sul sito della SIDEMAS potete trovare i centri che aderiscono a questa iniziativa, dove verranno fornite informazioni e non visite quest'anno, voglio sottolinearlo, vero, professore? Sì. Ecco. La ringrazio, professore, buonissima Prego. Giornata. Ringrazio lei. E noi andiamo a Maria Serena, che ci chiama da Parma. Buongiorno Maria Serena, benvenuta. Buongiorno. Eccomi qua, mi dica. Volevo chiedere se poteva essere una soluzione per una persona come me, che si scotta sempre facilmente alle prime esposizioni, se poteva essere una soluzione quella di fare qualche lettino prima di andare al mare, perché ho notato decisamente un miglioramento, non mi scotto più. Qualche lettino quanti? Quanti diciamo, lettini? Ne ho fatti 3 o 4 gli anni scorsi, prima, nel mese prima, e dopo è andata molto bene. E poi è andata liscia. Dottoressa Serri, qualche lettino per oggettivamente avere un bacio appassionato, bisogna ma avere non una troppo. Cosa. I lettini, anche se alcuni stimola anche la produzione di UVB, sono essenzialmente lettini a UVA. Per cui sono protettivi, ma fino a un certo punto. Io sono di questa idea. Chi si scotta frequentemente deve mettersi in moto anche per una fotoprotezione attiva, cioè rendere le sue cellule meno suscettibili di danno solare. Questo lo fa con l'alimentazione ricca di carotenoidi e, quindi... e con gli integratori solari da prendere un mese prima e poi per tutta la durata dell'esposizione. Sono estremamente utili. I lettini si possono fare purché pochi minuti e non più di 3 o 4, sì, rigorosamente senza la protezione solare, per non andare a creare degli squilibri biochimici e degli incontri ravvicinati non gradevoli tra il raggio del lettino e la molecola del filtro solare. Qui entreremmo in un campo un pochino complesso. Io dico solo, non mettere protezioni. Se c'è una parte che non si vuole esporre ai raggi, si mette sopra un telino, un fazzoletto, qualcos'altro. Se no c'è un'altra opportunità, la bronzatura chimica che è simpaticissima, è una caramellazione praticamente. Sì. Tinge il corpo, lo tinge in una maniera omogenea, perché se lo fai su questi lettini che ci sono, lo puoi anche fare a casa. Gli autoabbronzanti sono a base di queste due molecole, che sono di idrossiacetone e eritrulosio, che sono molecole anche accettate dagli standard della cosmesi ecocompatibile, per cui sono molecole assolutamente non tossiche. Meglio mettere su questi autoabbronzanti o fare l'abbronzatura chimica alla sera, quando poi la notte non c'è il buio, sì, e non andarsi a esporre al sole, ma comunque un'ottima soluzione. E si cambia pelle, lei tra l'altro ricordo il libro della dottoressa Serri, Cambio pelle, Sperling l'editore. Grazie. Si cambia pelle perché il colore aiuta. Ma non c'è niente da fare, ci sono persone che stanno bene con la pelle di luna e sono molto belle così. La maggior parte delle persone, uomini e donne, si sentono meglio abbronzati, diciamolo. Vorrei parlare di colore con il dottor Santinami. I nei, che hanno colori diversi, ci raccontano qualche cosa? Ce ne sono di marroni, ce ne sono di più scuri, quasi neri. Ci sono anche, come mi scrive un ascoltatore, i nei rossi. Ma sono nei? Solitamente sono degli angiomi, vengono confusi con nei perché a volte abbiamo il colore rosso, ma nella stragrande maggioranza dei casi sono angiomi. Il cambio di colore però per un neo può significare qualche cosa? Assolutamente sì, è uno dei parametri che ci così fa un pochino immaginare che magari non è esattamente il solito neo. Se assistiamo a un cambio anche in tempi abbastanza rapidi, cioè da un colore magari uniforme comincia ad avere delle discromie, delle variazioni di colore. Essere e benessere. Prima di lei c'è Federico che ci chiama dalla provincia di Parma. Federico. Buongiorno. Buongiorno a lei. Salve. Ecco. Io volevo chiedere se ci sono controindicazioni per chi pratica nudismo, ovvero prende il sole integralmente. Sì, avevamo capito. Nel senso per i nei, per la pelle, si dovrà spalmare un pochino di crema di più, perché la magliettina i nudisti non la usano, no? Quindi ma non la usano un cappellino neanche. Il cappellino è permesso? Federico? Sì, il cappellino sì, è permesso. Allora, questa è la domanda di oggi. Come si proteggono i nudisti? Dottor Santinami, voglio sentire lei e poi sentiamo la dottoressa Serri. Ma senza banalizzarla, aumenteranno il consumo di protettivi solari perché abbiamo una maggiore superficie esposta, ma in realtà non è diverso. Non cambia, anche perché voi uomini cosa mettete? Un boxer? Sarà un... No? Sì. Dottoressa Serri, io direi che Federico possiamo mandarlo. Mi viene in mente un amico appunto su una spiaggia nudista in Grecia che aveva preso un ustione in regione genitale molto notevole. Quindi bisogna prestare un po' di attenione anche nudisti perché svegli. È una zona, stando anche attenti, le parti mucose non hanno il corneo, quindi non hanno quella protezione data dal corneo, ma è difficile arrivare a esporre le mucose, e in ogni caso state ben svegli. Ma sì, c'è un trucco. L'asciugamano. Il trucco è quello di stare al sole alla mattina fino alle 10 e il pomeriggio dopo le 4:30. Negli altri orari meglio l'ombra. Il nudista invece che coprirsi può andare sotto l'ombrellone, può andare sotto un bell'albero, può andare, ecco. Va bene. Marcello da Reggio Calabria, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Una informazione avrei bisogno. Sì. Io ho un figlio che ha quasi 10 anni, ha parecchi nei su tutto il corpo, però in particolare ne ha 3 sul viso, che lui se ne vergogna tanto. Ovviamente ogni anno gli faccio fare la visita dalla dottoressa, lei lo tranquillizza e dice che ne non sono così brutti, non ce li ha se li fa col pennellino, tranquillizza, però lui se ne vergogna tanto. E la domanda è, volevo sapere a che età si possono togliere questi nei, anche se quelli che hanno il viso sono leggermente pronunciati, però sono molto grossi. Dottor Santinami, c'è un'età e si possono togliere nei anche solo per ragioni estetiche? Allora, si possono togliere nei anche solo per ragioni estetiche, come ha già detto la dottoressa Serri, non vale il solito vecchio l'uomo comune che è pericoloso togliere i nei. L'età, non c'è un'età precisa, a noi è capitato di operare anche bambini di pochi anni, perché avevano un neocongenito che stava crescendo, e che abbiamo preso questa decisione per evitare interventi maggiori più avanti negli anni. E quindi Lo può fare tranquillamente. Dipende da questa Il ragazzino ha un po' di tolleranza a fare un goccino di anestesia locale. Locale. Giovanna, buongiorno da Torino. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno, volevo chiedere al dottore, io ho in pratica tra l'attaccatura del seno e la parte del corpo, sì? Diversi, non direi neanche nei, sembrano delle piccole macchie beige, un po' in evidenza, non lisce quindi. E prima ce n'era qualcuna, io mi ero fatta vedere due anni fa e non mi avevano dato, mi avevano detto che non c'erano dei grossi problemi. Adesso sono cresciuti, direi quasi raddoppiati. Posso fare qualcosa anche perché cioè, immagino che con il reggiseno, poi magari con ferretto, l'elastichino del reggiseno dà fastidio. Dottor Santinami, di reggiseni lei non è esperto, ma di non ancora ma di lei e di guardi, da quello che dice la signora, ora, senza avere la presunzione di voler fare diagnosi così, sembrerebbe che stia parlando di cheratosi, che sono lesioni molto comuni, molto banali, quindi, la cui valenza è meramente estetica e che quindi può far togliere tranquillamente se le danno fastidio. Una scelta sua, non è certo non c'è un'indicazione clinica, ma è di comodità. Probabilmente diciamo o il papà o la mamma sono stati quelli che li hanno lasciati in eredità. Prima di salutarvi, iniziamo a prepararci al sole e adesso c'è una app che ci aiuta. In linea con noi abbiamo il dottor Francesco Loperfido, responsabile degli ambulatori di oftalmologia generale dell'unità operativa di oculistica del San Raffaele. Buongiorno dottore. Buongiorno, buongiorno. C'è una app che fornisce dei consigli molto importanti per chi vuole andare al sole. Sì, c'è un'app che va sia sull'Android sia sull'Apple. Si chiama Sole Amico e una volta che uno si è configurato in questa app ha una grossa opportunità, quella di delinearsi, e quindi se c'è una carnagione chiara o scura, occhi chiari o occhi oscuri, si delinea e poi con l'applicazione è possibile essere, come si dice, monitorati. Quando uno va in montagna si ha l'opportunità di sapere dove uno è e quindi quanto ultravioletto c'è, quanto luce blu c'è, e quindi le danno dei consigli come proteggere la pelle e come proteggere gli occhi. Fantastico. È un'applicazione fatta insieme alla Commissione Difesa Vista e per l'oculistica c'è poi un mio supporto con dei filmati, e così invece per la dermatologia c'è il professor Celleno dell'Università Cattolica, quindi che descrive un po' la protezione della pelle. Per baci in tutta sicurezza, grazie al dottor Loperfido, grazie alla dottoressa Sasserri, ricordo il suo ultimo libro, Cambio Pelle, Sperling Editore, e al dottor Santinami. Grazie a voi che ci avete seguito. Noi ci sentiamo come sempre domani, dopo il GR delle 11. Carmelo Lauricelli in regia la parte tecnica, e grazie a Laura Vanossi in redazione. Se tu a domani. Essere e benessere.